Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Dopo la doppietta di De Rossi alla Georgia è arrivata quella di Aquilani, dunque al Montenegro. Considerato anche il gol di Vucinic, tra l'altro bellissimo, si potrebbe anche pensare che la Roma scoppi di salute, cosa che invece non è. Comunque è curioso questa concentrazione di gol giallorossi in nazionale proprio in un momento in cui invece il giallorosso non è particolarmente di moda. Un'altra doppietta, quella di Balotelli, splendida tra l'altro, ha salvato letteralmente l'Under 21 in Israele da una eliminazione precoce. Adesso gli Under andranno alla fase finale europea in Svezia il prossimo maggio, o il prossimo giugno anzi. Inoltre l'Inghilterra di Capello ha vinto in Bielorussia, l'Irlanda di Trappattoni contro Cipro, morale, e il trionfo del Made in Italy, come ha titolato stamane 24 minuti, anzi oggi pomeriggio, visto che è il pomeridiano gratuito del Sole 24 Ore, insomma sembra essere la sintesi più efficace del mercoledì calcistico. Poi in realtà l'Italia ha stentato molto a Lecce, soprattutto nel secondo tempo. L'Irlanda di Trapattoni ha segnato con Robbie Keane dopo 5 minuti, ma poi è stata presa letteralmente a pallate in casa propria da Cipro, il portiere nettamente migliore in campo. Insomma, come sempre i risultati sono una cosa e i commenti un'altra. A proposito dei commenti, sulla partita, quello di Marcello Lippi. Complimenti anche ai miei ragazzi perché hanno fatto tutto quello che si deve fare in una partita. Hanno attaccato, hanno giocato, hanno creato, hanno pressato, hanno fatto gol, ne hanno falliti altri, hanno rischiato, hanno sofferto, perché bisogna anche saper soffrire per essere una squadra. E alla fine hanno vinto e credo che nessuno possa dire che non hanno vinto meritatamente. No, è vero, nessuno può dire questo, così come certamente nessuno avrebbe detto che era uno scandalo se invece la partita fosse finita in parità. Dell'Italia parleremo più in dettaglio più avanti con i vostri interventi. Adesso, come promesso, allargherei il discorso in un ambito un pochino più ampio, coinvolgendo il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, un saluto a tutti. Grazie per il dicastero, dici. Certo, senza portafoglio naturalmente. Senza portafoglio ci mancherebbe altro. Ci sono un paio di problemini seri che riguardano per l'appunto non il campo e si parlerà quindi anche tra poco di fischi e di incidenti, ma questo perché stanno nascendo delle casistiche interessanti da un lato e inquietanti da un altro. Però cominciamo dal campo e io ti proporrei di cominciare dal Sud America, perché molti degli ascoltatori non sono ancora informati sui risultati di Brasile, Argentina e su eventuali particolari che riguardino gli italiani che hanno giocato laggiù. Quindi proceda. Intanto basta vedere i risultati, perché insomma risultato identico con identica delusione, sfogliando un po', sfogliando metaforicamente insomma il Clarín o i vari siti dei giornali brasiliani, sia il Brasile che l'Argentina hanno deluso, perché il pareggio del Brasile con la Colombia e la sconfitta clamorosa dell'Argentina contro il Cile. Il Cile non vinceva una partita da tanto tempo e il Cile lo allena curiosamente Bielsa. È il loco Bielsa, che dell'Argentina è stato un controverso commissario tecnico, quello che ha fatto il mondiale in Corea e Giappone. Ebbene, insomma, i risultati sono stati negativi. C'è l'infortunio di Burdisso per quanto riguarda l'Argentina, un colpo alla testa, è dovuto uscire in barella, poi sembra non gravissimo. E invece è un po' più complicato l'infortunio di Juan nel Brasile, al punto che Juan non giocherà la partita di domenica sera contro l'Inter, costringendo Spalletti, che tra l'altro ha fuori anche Mexes e Panucci per squalifica, a costruire una difesa completamente inedita. Si parla addirittura di spostamento di De Rossi a difensore centrale. Alla maniera di Cambiasso, sì, alla maniera di Cambiasso nell'Inter, nelle prime giornate. Cosa che peraltro non mi sembra poi così impossibile, perché De Rossi secondo me lo può fare tranquillamente. Certo, il problema è che lo perdi in mezzo al campo. Il problema è che non ne hai due, certo, ovvio. Comunque insomma in Sud America succede questo, che c'è un Paraguay che sta andando benissimo, la sconfitta dell'Argentina fa più clamore perché avviene contro il Cile, ma non, la qualificazione mondiale non è naturalmente in pericolo. Però insomma può succede spesso che alla seconda partita forse alcuni dei giocatori che poi militano in squadre europee comincino più a pensare all'organizzazione del viaggio per tornare, diciamo così, alla logistica, perché altrimenti non si spiegano questi risultati negativi. Devo anche dire che il Brasile ha avuto tante occasioni contro la Colombia, però insomma poi le occasioni vanno anche concretizzate, e questa volta il Brasile non ce l'ha fatta, insomma. Dal Brasile rimbalza anche l'intenzione di Dunga di convocare Amauri per la prossima amichevole del 19 novembre. Pare che il giocatore abbia detto già abbastanza chiaramente, insomma, che il primo offerente è quello che avrà ragione, e quindi, poiché ci sono ancora lungaggini burocratiche per il passaporto italiano, sembra che, riguardo comunque alla convocazione tra gli azzurri, sembra che a questo punto potrebbe esserci questa inversione di tendenza rispetto a quello che si immaginava, e staremo a vedere. Sì. Vicende britanniche. Allora, i grandi elogi di Rio Ferdinand e di altri giocatori inglesi a Capello e alla sua gestione, che ha riportato un minimo di ordine dopo i disastri di quella di Harrison e del predecessore, dall'altra parte Trapattoni, che insomma a questo punto sembra essere, è vero che il nostro è un girone di burro, ma insomma è talmente di burro che l'unica rivale, se così si può dire, per la corsa, se non altro al primo posto, sembra essere davvero la nazionale Trapattoni. Sì, linea teorica sì, Gigi, perché comunque il distacco non è ampio, sono solo due punti, e l'Italia deve giocare tutte e due le partite, e sì, credo che soprattutto quella di Croke Park possa essere ambientalmente più complicata. Stiamo parlando di niente, nel senso che non è pensabile che la nazionale campione del mondo non vinca questo girone. Stiamo però discutendo di una squadra, quella irlandese, che è trappattonianamente ieri ha vinto 1-0 contro Cipro, segnando subito con Robbie Keane e poi guardandosi bene dal dare spettacolo. Quindi insomma io credo che vada sempre rispettata comunque una nazionale come quella allenata da Trapattoni, ma resta il fatto che non stiamo parlando davvero di un ostacolo alto. Però insomma la classifica dice questo, e va dato merito a Trapattoni in un modo e a Capello in un altro di avere dato una quadratura, di avere dato una logica a queste nazionali che, da un punto di vista della disciplina complessiva, dell'approccio alla partita, della gestione anche dei rapporti esterni, diciamo così, che non aveva brillato per particolare acume. Soprattutto le dichiarazioni di Rio Ferdinand sono secondo me paradigmatiche. Lui ha detto: prima eravamo un circo, eravamo qui con le wax, eravamo qui a parlare dei tacchi della moglie di Beckham e di tutto il resto. Adesso siamo una nazionale seria. Stiamo parlando di pallone, certo. Sì, non è una nazionale che incanta, perché comunque anche la nazionale inglese ha un girone che fa abbastanza sorridere. Sì, sì. Però se parliamo anche di una nazionale che si è fatta buttare fuori dalle qualificazioni europee in casa dalla Croazia, con la Russia che non stava vincendo una partita facilissima, ci rendiamo conto di che razza di approccio che hanno di solito gli inglesi a queste competizioni. Non a caso a volte ne rimangono addirittura fuori. Quindi in maniera diversa, certamente, perché i personaggi sono diversi, ma con lo stesso spirito hanno messo ordine a due nazionali scombinate. Poi magari quella di Trapattoni non andrà ai mondiali, quella di Capello sì, ma comunque il lavoro ottimo dei due è indiscutibile. È indiscutibile. Il resto del panorama europeo che cosa ci ha dato di particolare? Ma guarda, l'Olanda ha vinto in Norvegia e non mi stupisce più di tanto, anche se è un'Olanda molto lontana parente dell'Olanda che di solito ci ricordiamo come qualità di gioco. Devo dirti che il risultato che mi ha fatto più rizzare i capelli in testa è quello del Portogallo, perché poi ho visto le immagini, Portogallo ha avuto una quindicina di palle gol, ma insomma, pareggiare 0-0 in casa con l'Albania in un girone tra l'altro dove sicuramente ci sarà a combattere tantissimo e dove la vincitrice uscirà dall'ultima partita o dalle ultime due, insomma fa abbastanza specie. Cioè, il Portogallo torna a incarnare quello stereotipo ormai vecchio di tanti anni, che si diceva il Portogallo è bravissimo finché non si entra in area, certo. Poi quando si entra in area sono dolori. Rimane questo perché in realtà il Portogallo non ha ancora messo al mondo una prima punta d'area di quelle capaci di mettere in porta i palloni vaganti. Ci prova con Cristiano Ronaldo che tira da tutte le parti, però stavolta un po' di sfortuna, hanno preso anche un palo, insomma la partita la doveva vincere il Portogallo. Però se tu consideri che il Portogallo ha fatto 0-0 in Svezia e 0-0 contro l'Albania in casa, non è stata una buona settimana per i portoghesi. Poi c'è la Spagna ha vinto il Belgio, Iniesta ha fatto un gol secondo me memorabile, cioè poi tra l'altro ha tirato quasi dalla linea di fondo alla Mortensen, però dall'altra parte con il destro. E poi ha segnato David Villa nel finale. Si è infortunato Torres, che ha un problema muscolare, certamente salterà la partita di sabato con il Wigan, probabilmente salterà anche la partita di Madrid contro l'Atletico, che credo fosse una partita che Fernando Torres mai e poi mai avrebbe voluto perdersi. C'è un ascoltatore che chiede, non so se sei in grado di farlo, come si sono comportati i due, è un friulano ovviamente, si chiama Stefano, dice come si sono comportati i due cileni dell'Udinese. Qui non ci arriva, non sono davanti al computer, quindi non glielo so. Certo, glielo no, ma anche perché poi in ogni caso oggi queste partite verranno poi ritrasmesse sui vari canali che si dedicano al calcio internazionale, in questo caso credo che sia Sport Italia in particolare, e quindi Stefano potrà poi controllare De Visu, no? Come se la sono cavata. Arriviamo allora a questo argomento, che credo possa è un argomento di interesse sovranazionale, che è quello che riguarda i fischi. Perché Sarkozy è stato Sarkozy come ultima istanza, ma prima di lui il capo dell'esecutivo e prima ancora di lui il ministro dello sport, insomma. Hanno detto che quei fischi allo Stade de France, i fischi alla Marsigliese da parte dei tifosi tunisini, che sono poi dei magrebini della banlieue, perché lo stadio di Saint-Denis, giusto per inquadrare a chi non lo sapesse, lo stadio di Saint-Denis, che è lo stadio dove giocano le nazionali francesi, il tempio di calcio e rugby, in realtà sorge proprio nel bel mezzo, nel centro della banlieue parigina. I fischi all'inno, dice, da ora in poi non sono più tollerabili e quindi integreranno, come dire, la sospensione immediata della partita. Allora, non so se hai già visto l'agenzia in cui l'UEFA risponde a Sarkozy. No, non ho ancora visto. E allora la leggo, perché mi sembra che possa interessare agli ascoltatori, così poi ne facciamo un breve commento insieme. Gaiari, portavoce dell'UEFA, che è anche uno dei bracci destri dei consiglieri di Platini, dice... il responsabile del governo francese, nota che trattandosi di Gaillard, che è un francese, è particolarmente interessante, dovrebbero contattare UEFA e FIFA per rispondere a alcune domande pratiche. Per esempio, potrebbe essere un problema evacuare 80.000 persone da uno stadio senza far giocare le partite, ma soprattutto, dice, quante dovrebbero essere le persone che fischiano perché si decida di sospendere l'incontro? Una o 10.000? Bisognerebbe misurare i decibel? La partita sarebbe da rigiocare o si dovrebbe dare il 3-0 a tavolino? Senza dimenticare che non è mai semplice dimostrare se i fischi partono dai tifosi dell'una o dell'altra squadra, con la conseguenza che in caso di partita a rigiocare i sostenitori della squadra in difficoltà potrebbero essere tentati di ricorrere ai fischi senza alcuna violenza per bloccarla. Ora, ha concluso Gaillard, l'UEFA è aperta alla discussione e il presidente Platini ha più volte ripetuto che qualunque manifestazione razzista può indurre l'arbitro a interrompere il gioco, ma per i fischi bisognerebbe almeno valutare i modi e pensarci un po' di più. Ora, farei un ragionamento con calma, perché incombo le notizie sul traffico, ma mi sembra un discreto cazziatone al governo francese quello che Platinino. Cazziatone mi sembra il termine giusto, anche perché è molto dettagliato. Credo che Sarkozy abbia risposto un po' di pancia e Sarkozy abbia, diciamo così, un uditorio diverso rispetto a quello di Gaillard, però devo dire che non ho trovato niente di negativo nelle parole di Gaillard in questo momento. Sì, perché effettivamente c'è una logica. Poi sentiremo anche l'opinione degli ascoltatori su questo, sulla prestazione dell'Italia, su Balotelli, su Giovinco. C'è un ascoltatore che chiede: secondo lei arriva prima in nazionale Balotelli o Giovinco? È una bella lotta, secondo me. Io quasi quasi mi augurerei di vederli sbarcare presto insieme. Tempo di sport. Sì, in Francia, come abbiamo sentito, c'è una presa di posizione molto forte rispetto ai fischi che hanno toccato l'inno, la Marsigliese, l'altra sera, e l'UEFA ha reagito abbastanza duramente. In Spagna è andato un pochino al contrario, cioè è stata l'UEFA a cominciare le ostilità in un certo senso con la squalifica di due giornate più una già prenotata all'Atletico Madrid per gesti di razzismo e per incidenti nella partita contro il Marsiglia, l'ultima di Champions, e la Spagna, cioè le autorità spagnole, a cominciare da Zapatero, si sono ribellate a questa decisione, ma in maniera molto dura, e tra l'altro sembrerebbe anche documentata, Fabio. cioè, curioso che Sarkozy e Zapatero entrino così pesantemente nelle vicende sportive calcistiche, però tra l'altro in un momento in cui, come dire, i mercati forse qualche attenzione particolare richiedono, no? Sì, vabbè. Però penso anche che poi, insomma, la pancia sia sempre una parte del corpo che porta i politici a esternare abbastanza frequentemente. Comunque sì, l'ha fatto Zapatero prendendo completamente le difese dei Colchoneros, assicurando il massimo appoggio da parte del governo spagnolo e garantendo che farà tutto il possibile per dimostrare come la decisione dell'UEFA sia stata avventata, affrettata, certamente eccessiva e quant'altro. Devo dire che l'UEFA non è nemmeno fortunatissima, perché da questo punto di vista l'organizzare una gara su un campo neutro, nella quale ci sono i tifosi dell'Atletico Madrid evidentemente avvelenati e dall'altra parte quelli del Liverpool, che sono comunque dei tifosi un po' particolari, credo che non siano cascati benissimo. Quindi adesso ieri sera e stamattina rimbalzavano poi voci della possibilità di sospendere la squalifica, di farla partire dalla partita successiva, che è un non senso in realtà, perché credo che applicare questa situazione sarebbe quasi più complicato, cioè in questo caso il rimedio è peggiore, perché io credo che, insomma, le tensioni che scatenerebbe una decisione del genere, con una partita al Vicente Calderón, con una squalifica possibile, una squalifica già decisa per la partita successiva, potrebbe scatenare delle reazioni credo incontrollate. Mi auguro che pesino bene questa situazione, che non se la facciano scappare di mano. Poi ha ragione l'UEFA o ha ragione Zapatero, io non lo so perché non ero lì, però che prendano una decisione e quando l'hanno presa la seguono e la perseguono fino in fondo, altrimenti davvero si rischiano dei pasticci e di peggiorare le cose. Sì, e questa è una fase davvero di, come dire, chiamiamola dialettica per il momento, ma la dialettica dura, no? Tra questi organismi calcistici sovranazionali e invece, come dire, i governi, perché abbiamo sentito prima Sarkozy e tutto il suo, comunque tutto l'establishment francese schierato in quella vicenda in un certo modo, cioè se ci sono fischi all'inno non si gioca più. Qui, al di là del fatto che ci sarebbero a quanto pare le immagini in cui si vedono i tifosi francesi spaccare, leggo da un'agenzia, spaccare letteralmente le sedie in testa agli agenti antisommossa, il che, come dire, autorizzerebbe qualche pesantezza poliziesca che è seguita, ma qui il punto di diritto che rischia di aprire un fronte che fino ad ora probabilmente non c'era mai stato, o comunque non negli ultimi anni, è che l'UEFA è entrata nel merito, con questa squalifica, è entrata nel merito anche dei comportamenti della polizia, sostenendo che sono stati per l'appunto eccessivi. Allora, questo mi sembra, e qui il ministro degli interni, il capo della polizia, altri ministri, compreso quello dell'industria, Miguel Sebastián, che essendo tifoso dell'Atletico Madrid l'ha messa giù un po' dura dicendo che il sostegno all'Atletico Madrid sarà alla morte, insomma, no? Che forse non è il caso, non è il momento. Ecco, però mi sembra, Fabio, che poi chiudiamo questa parentesi, che integri, no, un conflitto che perlomeno recenti non ha precedenti. No, io ricordo ad esempio che una polemica sulla polizia fu fatta anche in Italia, soprattutto in chiave inglese, durante dopo un Roma Manchester United. La verità è incontrovertibile: nel momento in cui una partita di calcio diventa un problema di ordine pubblico, è chiaro che la gestione dell'ordine pubblico deve essere affidata in questo caso alla polizia e quindi alle forze dell'ordine, e sul grado di intervento che le polizie fanno penso che l'UEFA abbia poco o nulla da eccepire, perché allora ci andasse il signor Gaillard a dividere i tifosi a prendere delle botte. Su questo io non ho veramente dubbi. Detto questo, però, è chiaro che l'UEFA non può far finta di non vedere, di non sapere quello che succede. Quindi l'UEFA è l'organizzatore dell'evento, l'UEFA è quello che mette insieme il circo e poi la gestione la devono avere i ministeri degli interni, devono avere le polizie e tutto il resto. È molto difficile, chiaro, perché poi c'è anche una dose di populismo che però mi sembra una fase in cui un mezzo passetto indietro rispettivo potrebbe non guastare, no? Sì, certamente sì, soprattutto nelle dichiarazioni. Ecco, esatto. Ci vorrebbe un po' più di cautela quando quando si dà un po' di benzina, si spruzza un po' di benzina, perché poi il fuoco fa presto ad alzarsi, e devo dirti che complessivamente mi sembra che in Europa il fuoco sia cominciato a salire molto sopra le ceneri, perché, assolutamente, perché non è una fase bella. No, grazie. Grazie invece a Fabio Tavelli. A voi. Chiudiamo il collegamento. Rassicuriamo almeno in parte i tifosi della Roma, perché è appena arrivata una dichiarazione del manager, del procuratore di Guan, del centrale brasiliano che è uscito ieri sera per infortunio durante Brasile-Colombia. Il procuratore spiega che Guan è uscito al 20° del secondo tempo solo per precauzione. Da grande professionista qual è, e qui si capisce che è il procuratore che parla, intende gestire al meglio le proprie risorse per dare il suo contributo in vista delle prossime importantissime partite della Roma. Non ha accusato nessun risentimento, né affaticamento, né nulla di simile. È uscito per precauzione e quindi dovrebbe essere disponibile per la partita di domenica sera contro l'Inter. Staremo a vedere. Due ascoltatori in linea. Sì, per chiudere questa prima parte di programma. Drago, dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, sono Drago, provincia di Brescia. Dica. Farò le due domande. Certo. Cosa mi dice sulla qualificazione? Sono serbo, prima cosa. Sì. Sulla possibilità a qualificazione della Serbia. Un'altra domanda volevo chiedergli: che chance abbiamo per la qualificazione? Grazie. Che sarebbe praticamente la stessa come domanda, mi sembra, cioè è duplicata. Adesso lei mi sopravvaluta nettamente, perché se lei pensa che io sia al corrente del girone in cui gioca la Serbia, adesso vado a darci un'occhiata con calma, magari Drago le rispondo dopo l'intervallo, perché già faccio fatica a star dietro all'Italia e alle altre, diciamo, nazioni principali. Certo, poi tutto quello che è area ex Jugoslavia tecnicamente andrebbe seguito di più, questo sì, perché per esempio ieri sera nel Montenegro c'erano alcune individualità di quelle che ancora non conosciamo, quindi non Jovetic, non tantomeno Vucinic, ma per esempio quel Vukcevic, quello che giocava il numero 7, quest'ala ala d'appoggio mancina a tutto campo, beh, quello mi sembra un signor giocatore da tenere d'occhio. Da tenere d'occhio e come. Francesco, provincia di Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Complimenti sempre per la sua professionalità e intelligenza. Beh, non so niente della Serbia, però, per esempio. Vabbè, ma questo, diciamo, si può sapere di tutte le tanto squadre. Tanto vale dichiarare il colore. Dica. Sì, ma volevo dirle, sentendo prima le dichiarazioni di Lippi, cioè Lippi dice: abbiamo giocato, secondo il mio punto di vista, poco. Abbiamo sofferto tanto, perché in pratica Ameglia ha fatto due parate incredibili, nel senso, non abbiamo tirato tantissime volte e di conseguenza è mancato molto, per esempio, secondo me, Camoranesi, non costruiamo tantissimo gioco. Volevo sapere la sua opinione in merito. La mia opinione è che ha ragione lei, insomma, più di Lippi, nel senso che, però è anche vero che quando giochi una seconda partita in 4 giorni, quando evidentemente le energie, non hai potuto fare molti cambi, hai azzeccato quello decisivo, perché comunque è subentrato Aquilani ieri, rispetto, che è stato protagonista rispetto alla prima partita. È ovvio che alla fine, commentando comunque una vittoria, comunque non immeritata, un allenatore sia soddisfatto e lo dichiari. Poi è altrettanto ovvio che uno telespettatore, soprattutto dopo un primo tempo bello, scoppiettante, vivace, aperto, persino troppo, no, da un punto di vista tattico, soprattutto quando poi, dopo un primo tempo così, ripeto, ti resta negli occhi invece un secondo noioso, triste, e in cui sono stati gli altri comunque a fare quel poco che si è visto. A tempo di sport. Sinceramente, scrive Barbara, su 10 persone credo che a 8 della nazionale non interessi nulla. Beh, Barbara, a dare un'occhiata anche soltanto agli indici d'ascolto di Italia Montenegro, allo share 32-61, ascolti praticamente 9 milioni, 8 e 9,06, insomma, se fosse davvero soltanto il 20%, come dice lei, il popolo televisivo sarebbe vagamente più sterminato di quello che è. E quindi questo è relativo. C'è addirittura, l'ha sentito prima, chi chiede notizie della Serbia. Io ho provato a documentarmi nell'intervallo in testa al suo girone insieme alla Lituania. Effettivamente finora ha messo in fila la Francia e la Romania. Con la vittoria di ieri in Austria ha di molto migliorato la sua situazione. La prossima trasferta è in Romania. Credo che se la Serbia fa risultato in Romania, visto che l'altro confronto diretto sarà, parliamo di marzo, alla ripresa del girone tra Lituania e Francia, potrebbe davvero fare questa grande sorpresa di qualificarsi ai danni della Francia e magari di Francia e Romania, che erano nettamente le favorite. Una rubrica di posta adesso, una rubrica di posta in compagnia di Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Buongiorno. Perché? Perché insomma, hanno ottenuto un notevole successo i tuoi interventi degli scorsi giorni, sia quello di lunedì che verteva su... come dire, le ricadute della crisi economica sul calcio italiano, le possibili, varie ed eventuali, e lo stesso argomento, sia pure da un'altra ottica, ieri sul calcio inglese in particolare e internazionale, insomma è arrivato un sacco di posta. Te ne propongo tre, e questa convocazione nasce, come sai, dalla mia ignoranza crassa in materia e quindi dal voler evitare figuracce. A me, alla radio, sole 24 ore. Scrive Roberto Corti: le squadre quotate in borsa, su che cosa basano le loro azioni di borsa? Non ho mai capito bene come funzioni, ma un capitale lo dovrebbero avere. E allora che capitale hanno? Non lo stadio, forse i giocatori, che però hanno un valore effimero, se uno si fa male oppure cambia squadra. Insomma, per riassumere, i fondamentali. I fondamentali sono il singolo bilancio, il patrimonio dei giocatori e soprattutto... quando le società costruiranno gli stadi, ci sarà appunto lo stadio di proprietà come capitale base intorno a cui ruotare, diciamo, tutta l'attività economica, anche extra calcistica, insomma l'attività di merchandising o di accoglienza. E poi il modello inglese, di cui abbiamo tanto parlato nel bene e nel male in questi giorni. E questo è il grande problema, se vogliamo, del calcio italiano, che spesso viene sottolineato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, una mancanza degli stadi di proprietà. Certo. Quindi la quotazione, che non a caso si è in qualche modo arrestata, la quotazione in borsa delle società di calcio, insomma, si è fermata Juve, Roma e Lazio, insomma altre squadre che pure ci avevano pensato si sono fermate, e forse, insomma, vista la difficile situazione dei mercati, tutti i torti non l'hanno avuta, fa pensare che, insomma, quando a quotarsi una società che svolge un'attività sportiva come il calcio, sia pure economicamente molto rilevante, debbano esserci anche da parte delle autorità di vigilanza, insomma, delle premure in più rispetto alle normali società. Il quadro in Italia per il momento è questo, vedremo se appunto ci sarà questa rivoluzione. L'altro giorno anche l'Inter con Moratti ha annunciato la costruzione di un nuovo stadio, un progetto prossimo avventuro di uno stadio per il 2012 o 13. La Juve anche, insomma, la Juve è più avanti si sta cercando il nome dello stadio. È un progetto che servirà sicuramente a far crescere il calcio italiano. Quanto sia vicino, insomma, anche queste date che citavi lo fanno capire. Certo. Insomma. A proposito di società quotate, secondo intervento, Marco Lucchetti ha ascoltato il programma di ieri. Non posso credere che non sappiate che il debito non è della Roma ASSRL, che è in attivo, ma dell'Ital Petroli. Allora, tu hai già chiarito ieri, lo ripetiamo ad abbondanza. Abbiamo fatto ieri un passaggio sulla Roma quando parlavamo di squadre, diciamo, inglesi ed europee. Abbiamo affrontato lunedì il tema. Chiaramente non parlavamo dei debiti della Roma in quanto tale, ma della proprietà della Roma, che ha, come sappiamo e come hanno scritto tutti i giornali, superano i 350 milioni di euro, di cui 130 dovranno essere restituiti entro la fine dell'anno a Unicredit. Da qui le difficoltà della proprietà della Roma, non del bilancio della Roma in quanto tale, anche se chiaramente c'è un bilancio consolidato che fa capo alla compagnia Ital Petroli, che insomma fa sì che lo sguardo debba essere d'insieme sulla diciamo struttura che controlla poi anche la società sportiva, certo. Calcio Roma, insomma. Arrivo ad un'altra che insomma, per oggi è l'ultima e direi che è la più interessante. Questo ascoltatore che si chiama il dottor Simone Longo si ricollega, dice, a un intervento di ieri di un ascoltatore parmigiano che chiedeva come fanno le società dilettantistiche a pagare tanto i giocatori e faceva degli esempi di grosse somme, davvero, ingaggi di decine di migliaia di euro in società dilettantistiche. Allora, scrive il dottor Longo, le porto un esempio ovviamente astratto. L'azienda ASPA, che produce mobili per uffici, stipula un contratto di sponsorizzazione con la società dilettantistica B, che milita in promozione. L'importo ufficiale che compare a bilancio è di 500.000 euro. In verità la società sportiva B incassa un bonifico bancario di 500.000 euro dall'azienda ASPA e sottobanco in nero restituisce ad ASPA 300.000 di 500.000. La società dilettantistica B fa comunque un affarone, perché per una squadra di promozione 200.000 sono tanti, non correrà alcun rischio, quasi, perché nessuno andrà a controllare i suoi bilanci, essendo una società sportiva non a fine di lucro. L'azienda ASPA otterrà pubblicità e visibilità, un risparmio di tasse approssimabile al 40% di 500.000 euro, il proprietario dell'azienda ASPA si incasserà puliti, anzi sporchi perché in nero, 300.000 euro con risparmio personale di tasse approssimabile in 150.000 euro. Le somme finali le tiri lei, no, le faccio tirare a te, Marco, perché io ho già l'emicrania. Conclude questo signor, questo nostro interlocutore: le assicuro che fino a pochissimi anni fa il giochetto era a rischio zero, ora è a rischio 1-2, ma per molti vale ancora la candela. Tutto questo è attendibile? Beh, non so se è un commercialista il signor Longo. Questo non è immagino di sì. Il fenomeno delle sovraffatturazioni fittizie, diciamo, è molto diffuso in Italia ed è diffuso, ahimè, anche nel mondo dello sport. Dilettantistico. Diciamo che, innanzitutto, chiariamo, c'è una norma che consente dal 2003 alle imprese, alle aziende, di finanziare, di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano quindi un titolo valido con 200.000 euro che sono interamente deducibili ogni anno, quindi fino a 200.000 euro io posso, diciamo, grande società, sponsorizzare, finanziare, sostenere un'associazione sportiva dilettantistica con deduzione e non pagare le tasse fino a 200.000 euro su questa somma, certo. Su questa somma. Qui finisce, diciamo, ciò che è lecito, certo, è tutto il resto evidentemente attiene a pratiche che sono non solo, insomma, eticamente censurabili, ma anche legalmente, fiscalmente. Ma plausibili a parer tuo? Plausibili, perché diciamo, il fenomeno non è ignoto al fisco, ci sono state in passato inchieste, era molto diffuso effettivamente negli anni scorsi. Considero attendibile il fatto che sia tuttora diffuso e che i controlli, diciamo, sulle associazioni sportive dilettantistiche che non operano a fine di lucro non siano, diciamo, di uguale portata o frequenza come per le normali imprese. Chiaramente le associazioni sportive dilettantistiche non, diciamo, quando ricevono sponsorizzazioni così alte diciamo, devono comunque pagare in teoria le tasse su quelle somme, ma e quindi sono costretti a loro volta a gonfiare, diciamo, non so, i rimborsi spese dei loro atleti con un gioco di rimando e di incastri, certo, pericolosi, certo, che insomma non spetta a noi andare a controllare, a censurare, no, ma certo, gli ispettori del fisco insomma hanno materia, noi glielo segnaliamo, ma immagino che conoscano benissimo il fenomeno. Diciamo che ci sono alcuni nostri ascoltatori che evidentemente la sanno lungo in materia. Allora, continuate a scrivere, perché continuate a scrivere alla Tempo di Sport e io poi mi preoccuperò di inoltrare la posta di questo genere a Marco Bellinazzo e di convocarlo per altre risposte. Marco, grazie. Grazie a voi. Per oggi chiudiamo questa parentesi. A Tempo di Sport. Subito il ripasso di storia per guadagnare tempo sui vostri ultimi interventi. Dunque, Nicola Filippone. Sembra ieri. 16 ottobre 1968, Olimpiadi di Città del Messico. Durante la cerimonia di premiazione dei 200 metri piani, i due atleti statunitensi Tommy Smith, che aveva appena ottenuto oro e nuovo primato mondiale, e John Carlos, vincitore della medaglia di bronzo, inscenano la più famosa protesta nella storia dei giochi. I due velocisti di colore si presentano sul podio scalzi e alzano il pugno ricoperto da un guanto mentre ascoltano l'inno a capochino. È un gesto di condanna delle discriminazioni razziali e di adesione al movimento Progetto Olimpico per i Diritti Umani. Il secondo classificato, l'australiano bianco Peter Norman, aderisce alla protesta esibendo un distintivo donatogli dai colleghi. L'iniziativa non è per niente gradita alle autorità organizzatrici, che espellono Smith e Carlos dal villaggio olimpico con effetto immediato. Certamente uno dei gesti che più è rimasto nella storia e che per sempre rimarrà nella storia dello sport o del costume sportivo, e che poi ha avuto un eco triste da un lato e nobilissima dall'altro lo scorso anno, quando è morto Norman in Australia e i due grandi atleti, che il primo e il terzo, si sono recati, sono andati in Australia al funerale di questo atleta bianco che invece aveva solidarizzato all'epoca con loro. C'è in linea Alberto da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono dottor Garanzini. Dica. Volevo riallacciarmi a una sua affermazione di ieri. Sì. Senta, lei ha detto ieri, parlando del debito della Lazio, che ha stipulato questi 23 anni di mutuo con il fisco per pianare il debito che aveva pregresso. Lei non ha però mai specificato una cosa, che innanzitutto con questo atto la Lazio ha salvato la sua storia, i suoi 108 anni di storia. Vabbè. Secondo, che non è stata la prima squadra, la Lazio, a usufruirne di questa legge, ma sicuramente il Trento e se non sbaglio anche la San Benedettese prima. Seconda cosa è che e forse per lei, secondo lei, è meglio avere una squadra a fare, cioè ridare questi soldi anche in 23 anni, o fare come ha fatto Fiorentina, Palermo, Napoli, e fallire completamente e non restituire niente allo Stato, per cui lo Stato in questo caso non, almeno con la Lazio rincassa i suoi 150 milioni di euro, quanto sono, li riprende, anche in 23 anni, ma li riprende. Questo lo vedremo, Alberto. Far sì che questi soldi vadano persi tranquillamente. Ascolti, l'intervento di ieri non era in chiave anti-Lazio, era anti-Agenzia delle Entrate, nel senso che se l'Agenzia delle Entrate ha deciso di fare questo sconto, questa spalmatura, di concedere questa spalmatura incredibile alla Lazio, ma incredibile tra i record di tutti i tempi, anche perché 23 è un nome che non somiglia a nulla, è un numero che non somiglia a nulla, che non ha alcun senso. È buono per il lotto, per l'appunto, non per delle cose serie. Se ha deciso di fare questa concessione, la Lazio non c'entra assolutamente nulla. Avrà ringraziato, immagino, sapendo di poter ripartire appunto il debito su 23. Però un paese in cui ha una società sportiva gloriosa o 108 anni, già questo non importa assolutamente nulla, a una società sportiva vengono date di queste agevolazioni, mentre invece a una società sportiva che sta fallendo, mentre le stesse agevolazioni, ma neanche molto meno, vengono date, non vengono concesse ad altre società o ad altre imprese che stanno avendo o hanno avuto in passato dei momenti difficili, secondo me è una cosa a me personalmente ripugna. Poi mi par di capire che all'epoca ripugnò alla stragrande maggioranza degli italiani, e dopodiché invece ci sarà qualcuno che è d'accordo, come sempre. Aldo, provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, niente, volevo solo due considerazioni e volevo da lei il suo pensiero. Ecco, il primo è che sull'inno francese fischiato, sulla Marsigliese, io mi è capitato in questo periodo di andare a Parigi e mi sono reso conto che di francesi veri a Parigi non è che ci sono tanti, ecco, tutto qui. E io credo che tra poco sarà fischiato anche l'inno italiano, perché in questo mondo multirazziale che ci hanno imposto è chiaro che tanta gente, la maggior parte della gente, non si riconosce più sia nella Francia, inteso nella Marsigliese, che nell'Italia, inteso nell'inno di Mameli, ecco, tutto qui, questo era una considerazione. E non è male questa considerazione, perché in effetti è ovvio che l'identità nazionale poco alla volta si perde. Poi io credo che se, ma non vorrei addentrarmi troppo in percorsi che non mi competono, ma insomma io credo che più gli immigrati vengono trattati bene, più si identificano e l'inno non lo fischiano, adesso detto così, no, molto, ma molto a spanne e molto a sorvolo. Se invece hanno delle tensioni, delle conflittualità violenti, come per esempio ce l'hanno nei banlieue parigine, è assolutamente normale, come lo stesso ministro dello sport francese ricordava ieri, che tre volte la Francia ha giocato in amichevole allo stadio di Saint-Denis contro le tre nazioni del Maghreb e tre volte ha fischiato la Francia, sono le uniche volte in cui è accaduto. Ha fischiato la Marsigliese, tre volte è accaduto. La seconda? Ti posso? Certo, dica. Io sono abbonato a un server che mi arriva dei messaggini di sport. Mi è arrivato stamattina un messaggino che mi diceva che il signor Moggi è stato processato a Napoli, dove non mi ricordo, e i giudici l'hanno contestato quello che secondo loro aveva fatto e lui ha detto il popolo italiano, il popolo sportivo italiano dovrebbe essere migrato perché ho fatto vincere un mondiale. Ora io mi chiedo, ma questo signore ha perso la testa o ha delle manie di grandezza? È lei che sta perdendo secondo me qualche quattrino con questi messaggi che si fa spedire. No, sono a zero. Beh, ti controlli bene, perché tutte le cose a zero, prima o poi a zero non sono più. Controlli bene e perché effettivamente farsi rovinare la mattinata, da parer mio, per ricevere un messaggio di questa natura, poi per carità, Moggi è liberissimo di dire e di rivendicare quello che crede. Io penso che, dato che sono 2 anni e mezzo circa ormai che stiamo aspettando la sua verità nei tribunali o fuori, e che stiamo aspettando quella appunto che era stata promessa, se adesso anziché la ricostruzione vera dei fatti c'è che nel frattempo lui ha fatto vincere l'Italia mondiale, beh, insomma, credo che la verità da parte sua perlomeno tarderà ancora. Leonardo, Bologna, buongiorno. Buongiorno Garassini. Sono intanto, permetto, non sono tanto d'accordo per quello che riguarda la considerazione di questo ascoltatore, per quello che riguarda i fischi alla marsigliese. Credo che ci sia una matrice un po' diversa per cui un francese o un magrebino fischi l'inno francese rispetto a un italiano magari che fischia un italiano o una persona extracomunitaria che è venuta in Italia. Insomma, sono delle origini magari sono tutte colonie, ex colonie francofone. Sì, no, ma di fatti. Un po' diverse. Le situazioni sono molto diverse, questo è vero. Poi no, le volevo dire, io mi stupisco non tanto per i giornalisti che devono dire spesso, devono insomma non aizzare, però stimolare un pochino anche i dialoghi con gli allenatori, quanto, però ci sono ancora tantissimi tifosi che sento dire, uno prima ha detto che l'Italia ieri era ancora stupito che abbia sofferto contro questa nazionale che secondo me ha anche una certa cultura calcistica, perché sono nazioni dell'ex Jugoslavia, che sono gente che gli dà del tuo al pallone, si stupiscono ancora che la nazionale possa soffrire qualche match. Cioè, secondo me c'era Mazzone, siccome io vengo da Bologna, disse una cosa bellissima, poi chiudo. Dice, i pellegrini sono andati tutti al giubileo, non ce n'è rimasto neanche uno. E lui aveva questo modo di dire le cose. Sì, certo, di chiosare a quella maniera. Leonardo, grazie del suo intervento. Volevo leggere un messaggio ancora, lo firma Cristian da Modena. Dice, io per una multa di 17.000 euro ho chiesto una dilazione di 24 mesi, hanno fatto molta fatica a concedermene 6. Cristian, lei non ha 108 anni di storia e questo mi sembra evidente. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione, a voi che avete seguito, e appuntamento da domani con Carlo Genta per i programmi sportivi del fine settimana. Buon pomeriggio.